a colpi di pompa. Intolo ho parole che fanno pensare, e dico solo a colpi di pompa. Ma ho i miei modi per i nodi da slegare, e slego solo a colpi di pompa. Ho troppa rabbia dentro che devo sfogare, la sfogo solo a colpi di pompa. Sfogo la mia ira quando prendo carte viro. Al mio fianco Ale gira e mi dice: frivo è un tiro. Afferro quel porro, ispiro e decollo. Ma il cugi chiama calma dalla torre di controllo. Ok, hai ragione, scusa fra, sono un coglione. Ma se dallo spino ispiro, volo in piena ispirazione. E vado, me ne vado con la testa, e cado in un posto più nascosto. Non è un bosco né foresta, qui zero piantagioni. Ho animali vari, ma espressioni di parole fra sinonimi e contrari. Aggettivi rari sopra i volti di chi sbaglia. Colpi come spari, rime carica mitraglia. In sto modo dal mio ego alla gola slego il nodo. Miro, tiro dal cannone, le parole fanno fuoco finché scarico il mio calibro sopra al più duro. Ricarico a Toprático e gli sparo un vaffanculo. Far su chiunque per chi sgarra. Esplodo colpi rap, chiuso il bunker di Zonarra. Io fuso in sala rec, lui al mic che mi parla e spiega che la rabbia puoi sfogarla sulla barra. In gola ho parole che fanno parlare, e dico solo a colpi di pompa. Ci metto un attimo e smetto di pensare, istinto puro a colpi di pompa. Ho lo scazzo che mi parte dalla punta alla radice. Sarai diverso se importasse ciò che in giro qui si dice. Non ti studio la teoria ma sono bravo nel mio pratico. L'utopia di un sadico, mi seguono gli scarsi come al pifferaio magico. Tanto va lo stronzo Marco che ci lascio la mia rima. L'antiquato nel pensare come una pellicola con la vantina. Ho lottato per la strada, ora mi danno del poeta. Se parlo della vita poi mi chiamano profeta. Ma non puoi asciugare ciò che non si bagna, mio caro professore. Quando ho capito la lezione mi hai spedito dietro la lavagna. Non ho mai bevuto dal bicchiere di un infame. Il legame forte tu ci puoi contare. Se nelle vene non ti scorre sangue ma liquame. L'SKOGH in produzione, con due parole e quattro rime mando la tua penna in cassa integrazione, bro. Vivo la filosofia, soffia di un pazzo, pugni contro muro e porto avanti questo andazzo. Sporco e mal vestito con il terzo dito che ti fa da invito. Corrotto dallo schifo che mi porto dentro. Lo scarto del quartiere lo rivedi dalla scritta impressa sul cemento. Sta a me decidere il presente, poi riscrivere il futuro. Per guardare il mio passato e poi mandarlo gentilmente a fare in culo. Scotch a colpi di pompa. Colpi da KO, bro. Fanculo. A colpi di pompa. Così che me la vivo. Yo. A colpi di pompa. 2009, vetro, bridere e scotch. In gola ho parole che fanno pensare, e dico solo a colpi di pompa. Ma ho i miei modi per i nodi da slegare, e slego solo a colpi di pompa. Ho troppa rabbia dentro che devo sfogare, la sfogo solo a colpi di pompa.